Dove sei? Tu che hai dato senso colorando i giorni miei. Io che ho perso il conto degli istanti tra di noi. Ho cercato dentro la tua assenza un'anima, senza avere paura. Io che ho letto tutto Schopenhauer per capire cosa sia il dolore. Ma mi bastavano i tuoi occhi, la tua pelle, il tuo sapore. Un bacio alla francese dai, e chissà adesso come stai. Ti sussurrerò in silenzio che mi resta di te, una canzone che ho scritto solo quando tu amavi me. Adesso ormai di te, sai cosa rimane, tutto ciò che io non ho più di te. Se avessi le tue labbra io ti bacerei, se fossi una promessa io ti manterrei. Sopra le mie spalle come Ercole, saresti sempre centro anche al margine. Ho mille lettere d'amore che non hai mai letto, mille libri stesi al buio che non ho mai scritto. Quante sono le parole che non ti ho mai detto. Sai, nascondo sempre gli occhi, sono il mio difetto. Gli altri sanno solo mentire. Dimmi che altro canto c'è da capire. In questo mare se ci posso affogare, se le perle sono giù nel fondale. Mi resta di te, una canzone che ho scritto solo quando tu amavi me. Adesso ormai di te, sai cosa rimane, tutto ciò che io non ho più di te. Io ho letto tutto Schopenhauer per capire cosa sia il dolore. Ma mi bastavano i tuoi occhi, la tua pelle, il tuo sapore. Un bacio alla francese dai, adesso come stai? Ti sussurrerò in silenzio che mi resta di te, una canzone che ho scritto solo quando tu amavi me, adesso ormai di te.